Libero, ecco qui, questo sono io. Vita, io l'ho bruciata in tappe, troppo in fretta mai. Vivo alla grande, sono il migliore intelletto che c'è. Ma quanta tentazione, ascolto i sensi, mi getto con tutto me stesso, perché io ci godo con te. È questa l'anima, è questa la mia anima. Ripenso a volte che se ci fosse un vero in me, ma vivo solo da me. È questa l'anima, è questa la sua anima, che mi trascina con sé, mi perdo dentro quel sé, e vivo solo con me. Mi dice che il peccato non è un problema mio. Dice che son colto e che la verità è mia. Credevo nel Signore e la sua via, che era l'amore ovunque si dà. È questa l'anima, è questa la nostra anima. Pensando a Dio nel cielo, ma sulla terra non c'è, e senza niente io e te. È questa l'anima, è questa la nostra anima. La scienza vede per noi, nient'altro dentro di noi, ma solo terra in noi. È questa l'anima.